24 mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 15 minuti e 15 secondi e senza il traffico che evidentemente ha avuto qualche problema inizia questa terza parte di 24 mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, cari assistenti civici, buongiorno da Simone Spezia e Maria Latella. Ciao Maria, eccoci, buongiorno. Buongiorno Simone. Avrei voluto cominciare questa mattina con una nota allegra, divertente, e invece mi tocca cominciare con una cosa che mi piacerebbe non aver letto, ma Le Figaro dedica proprio l'apertura, secondo me molto saggiamente, al fatto che gli studenti e i giovani diplomati saranno anche loro, no? Le vittime della crisi del Covid-19, perché noi parliamo tutti i giorni, e giustamente, di quelli che ci stanno rimettendo il lavoro e di quelli che purtroppo, e sono tanti, ci hanno rimesso la vita e la salute. Ma il problema, e lo dice in tutta una pagina un bell'articolo di Caroline Beuillet, è che con gli stage rinviati, con i piccoli lavori, perché in Francia, ma anche in altri paesi, l'estate i ragazzi non vanno in spiaggia, ma si cercano dei lavoretti, con i concorsi che dovevano essere fatti per quelli che si sono o che dovevano laurearsi, concorsi rinviati, c'è una generazione, scrive Le Figaro, che è veramente a rischio di perdere un'occasione, ed è purtroppo un dato che mi sembra un po' sottovalutato da noi. Ne parleremo, credo, anche più tardi con la vicepresidente della LUISS, Paola Severino. Ma insomma, il problema delle generazioni, che sono tante, dai bambini delle elementari appunto agli studenti degli ultimi anni di scuole superiori, che per colpa del Covid avranno ritardi in vari settori, è un tema da porsi, tanto più che in questi giorni, lo fa oggi sì. Ernesto Galli della Loggia, in prima pagina ci si interroga su quanto sia importante avere una classe dirigente formata, classe dirigente che non significa per forza ricchi, significa persone che, anche venendo da famiglie meno abbienti, hanno avuto la possibilità di formarsi e di istruirsi e di essere poi utili al loro paese. Ma certamente, quello che abbiamo detto spesso è che questa epidemia, questa pandemia di Covid-19 crea problemi soprattutto nelle fasce sociali più fragili e soprattutto tra i ragazzi e i bambini che vivono in queste fasce sociali più fragili, e quindi già con la scuola hanno più difficoltà per il semplice fatto che non hanno in casa persone che li supportino con la qualità dovuta. Spesso questo avviene, sono più a rischio di abbandono della scuola. Un grandissimo tema, grandissimo tema. Posso dire una cosa? Guardate, lo dico a un ascoltatore che dice basta con Le Figaro, guardate che non avere un occhio su quel che succede vicino a noi ci rende spesso miopi. Il fatto di citare un articolo di un giornale che non è italiano, ma che mette in luce un problema che riguarderà i figli e i nipoti di tanti di noi, dovrebbe aprire gli occhi. Non è snobismo, è allarme, è una cosa diversa. Sì, bisogna prestare attenzione a tutto questo. Pierpaolo Sileri, buongiorno e bentornato, viceministro alla salute. Come sta, buongiorno, Sileri? Grazie dell'invito. Bene, tutto a posto? Sì, bene, grazie. Bene, senta, il segretario generale del Ministero è tornato al lavoro oppure no? Allora, il punto è stato al lavoro al Ministero, il punto era l'assenza al Comitato Tecnico Scientifico. Ah, ok. Quindi questo rapporto di cuore, è chiaro che le cose da fare sono tante, quindi uno non può essere ubiquitario, però la mia lamentela era sul coordinamento delle informazioni in maniera pronta e decisa. Scusi, diciamo, c'era rimasta un po' questa curiosità. Prego Maria, vai. Sì. Senta, mentre si nota con piacere che oggi la Lombardia segnala zero morti, c'è anche preoccupazione per i dati che potrebbero non essere aggiornati, quantomeno. Lei crede che le regioni possano aggiustare i numeri per paura di essere fermate? No, non credo. non vedo perché dovrebbero farlo, francamente. Qui si tratta di sanità, si tratta di persone che muoiono, si tratta di contagi, dubito fortemente che possa accadere questo. Credo che invece il calo dei morti sia reale, poi è chiaro, vedremo se è davvero zero o se magari nel secondo controllo che faranno, soprattutto dai comuni, perché da quanto ho capito i dati che provengono dagli ospedali non vi è stato nessun decesso, però il calo è evidente, voglio dire, ogni giorno si è assistito a un calo dei decessi, un calo dei posti in terapia intensiva occupato, un calo nei contagi, quindi immagino e spero davvero che sia zero, perché no? Qual è il livello di affidabilità di questi numeri, Sileri, dei numeri che abbiamo? Perché sa che si sono espresse molte perplessità su questo. Lei stesso a questi microfoni ci ha detto: guardate, io cerco di avere una serie di dati dallo stesso ministero nel quale lavoro e non riesco ad averli. Allora, sono molto più affidabili i dati di oggi rispetto a quelli di 3 mesi fa, per due ragioni. La prima è che il numero è inferiore. Voi immaginate, se vi ricordate, a metà marzo il numero di decessi, il numero di infetti, la rincorsa che vi era per trovare i positivi, il numero di tamponi. Quindi è chiaro che maggiori sono i numeri nel breve arco di tempo da dover raccogliere, maggiore è la possibilità di errori. Poi anche, voglio dire, lo studio dell'INPS mostra come il numero di decessi, soprattutto nel nord Italia, sembrerebbe maggiore rispetto a quello riportato. La seconda ragione è che nel momento in cui la macchina si avvia e quindi passano le settimane, vi è un rodaggio migliore e quindi dopo il rodaggio è chiaro che i flussi sono più garantiti, è più semplice raccogliere i dati, più semplice trasmetterli, i canali sono ormai formati. Quindi i dati che noi abbiamo oggi e per numero di dati, quindi numero di persone infette, numero di morti, eccetera, e perché il sistema ormai è ben avviato, sono sicuramente più affidabili. Possono sempre essere migliorati, attenzione, si può sempre fare meglio, questo è evidente, però credo che i dati siano non solo reali ma anche ben controllati. Senta Sileri, che cosa si può fare per aiutare i sindaci di tante città alle prese con una reazione che era prevedibile, era inevitabile forse, ma che se perdurasse creerebbe dei problemi? Parlo degli assembramenti soprattutto serali. Lei ha fatto una riflessione, ha parlato con questi sindaci, com'è la situazione? Allora, la situazione è molto disomogenea anche all'interno degli stessi comuni, a dire il vero. Qui serve una maggiore opera di formazione e informazione, coinvolgimento. È evidente che se io vado da una persona e dico: guarda, devi tenere la mascherina su, devi avere una distanza di almeno un metro da un'altra persona, devo anche spiegargli il perché, i vantaggi, i rischi nel non farlo. E quindi è chiaro che serve il coinvolgimento di tutti. Serve, forse serviva, ma ripeto, siamo stati investiti da questo tsunami, una maggiore opera di formazione e informazione, come quando fai dei corsi in ospedale, no? Su una nuova tecnica. Ma secondo lei questi assistenti civici servono a qualcosa oppure no? Secondo me sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ma diciamo controllo, formazione, quello che dicevo, cioè io ieri ho visto un servizio nella quale vi era un bar con la gente chiaramente assembrata. Allora lì serve anche che magari il gestore del locale operi un'azione di convincimento, di diciamo formazione, di dire: guardate, state più lontani, far capire che il virus è ancora fra noi. Chiaro che se poi abbiamo dei risultati così tranquillizzanti, e di questo sono contento, tutti poi credono che il virus non sia più qui, oppure tutti credono che il virus sia ormai così attenuato che non fa più nulla, è chiaramente un errore madornale, grossolano. Mi fa venire in mente, vi ricordate l'HIV? Diciamo a cavallo tra gli anni 80 e 90, no? Eravamo tutti terrorizzati dall'HIV, se ne parlava spesso. Oggi l'HIV, diciamo, soprattutto molti giovani, ve lo dico per esperienza da medico, o non sanno cos'è e addirittura non sanno nemmeno come si trasmette. Allora bisogna avere consapevolezza che il virus circola, che pone dei rischi. È vero che diciamo uccide più facilmente i fragili, però i giovani sono un mezzo di trasmissione. Allora, Sileri, lei dice che bisogna fare formazione, ma mi immagino la scena, gruppo di ragazzi che quando stanno in gruppo cercano ovviamente di mettersi in luce, no? Arriva il volontario che gli dice: ma scusate, perché non vi mettete la mascherina? Il bullo del gruppo fa: a me la mascherina di mettermela non me lo dici, e va avanti così. Non vede, come dire, dei rischi, che magari ci scappa pure la rissa, perché il povero volontario a un certo punto viene messo in condizione di andarsene. Faccio un'ipotesi, è un rischio, che è possibile che sia anche frequente, diciamo. Spero che non sia così frequente, perché è chiaro che a quel punto servirà qualcos'altro, ma è chiaro che purtroppo è un rischio che si corre. Io quello che però ho visto è stata tanta responsabilità. Anche ieri che sono uscito con mia moglie, ho visto le persone che avevano tutte la mascherina all'aperto, quando erano distanti la mascherina la abbassavano, però devo dire responsabilità l'ho vista. Servirà del tempo probabilmente per convincere anche questi, come gli ha detto lei giustamente, bulli, e poi vedremo anche i dati della prossima settimana e delle settimane successive. Ciò non toglie che se dovesse esserci di nuovo una ripresa importante del passaggio del virus da persona a persona, e quindi il cambiamento di quello che sono i parametri che noi controlliamo, è chiaro che allora lì bisognerà fare un passo indietro, magari locale, magari chirurgico solamente in alcune aree, però ecco, bisogna tenere presente che non correre troppo avanti, diciamo rispettare le regole, usciremo prima da questa tragedia. Ma no, non ho capito come funzioneranno queste figure. Ci sarà un bando la settimana prossima, Sileri? So che non è magari direttamente di sua competenza, per carità, però insomma, essendo un rappresentante del governo, occupandosi di queste cose, immagino che se ne sia interessato. Sì, vi sarà un bando. E verranno pagati? Come funziona? Sono volontari? Guardi, questo, questa settimana si delineerà tutto, e già l'aveva anticipato il ministro Boccia, quindi questa settimana poi sarà tutto sicuramente più chiaro, e anche la numerosità, perché si è parlato, se non ricordo male, di 60.000, sì, giusto? Sì. Poi vediamo se magari ne servirà qualcuno, anche qualcuno di più, e poi verranno distribuiti sul territorio. Qualcuno di più eventualmente di questi 60.000. Beh, vi ripeto, è possibile che andando avanti sia necessario incrementare anche i numeri, perché ripeto, noi dobbiamo pensare a questa situazione, a questa nuova fase, in una maniera abbastanza elastica. Io credo che il punto di partenza siano i dati che il Ministero fornisce ogni settimana, tipo quelli forniti venerdì, perché poi da lì si parte per la settimana successiva. Cioè vedere com'è il contagio, come vanno le regioni, quanto è il numero dei contagi rispetto alla settimana precedente, quanto è l'impegno del Servizio Sanitario Nazionale. E quindi questo monitoraggio attento rientra in quel cosiddetto rischio calcolato, e proprio perché è un rischio calcolato si deve essere pronti a prendere delle misure di settimana in settimana. Maria? Centri estivi. Il governo ha praticamente annunciato la loro apertura. Secondo lei si riuscirà a gestirli in sicurezza? Secondo me sì, sempre attraverso quei protocolli condivisi e quel buon senso che abbiamo detto prima, cioè sempre distanza, mascherina, flussi controllati, turnover, controllo chiaramente di coloro che sono gestori, lavoratori, volontari e quant'altro. E ripeto, anche qui di volta in volta bisogna essere pronti, in base al cambiamento dei numeri, eventuali contagi, a creare delle micro aree che poi magari possono essere chiuse e successivamente riaperte. Sardegna, prima la Sardegna, poi la Sicilia si è accodata, stanno ipotizzando una sorta di passaporto sanitario per accedere alle due isole, per andare in vacanza nelle due isole, basandosi anche sull'ipotetico arrivo di un test rapido entro l'estate. Che cosa ci dice innanzitutto, se le sembra praticabile questa ipotesi sarda e siciliana, e se questo test arriverà, se si sta studiando o non si sta studiando? Beh, è chiaro che le isole sono naturalmente più protette, no, dai flussi. L'idea di un passaporto è ambiziosa, però credo che serva un'uniformità su tutto il territorio nazionale. È chiaro che torniamo anche all'idea, ad esempio, del passaporto di immunità, no? Coloro che hanno avuto il virus allora sono immuni, non esiste questa possibilità. Credo che invece un adeguato controllo dei flussi Sicuramente l'utilizzo di test sierologici, meglio sempre il test sierologico con prelievo di sangue, ma è chiaro che se esistono dei test con la punturina adeguatamente... Quindi secondo lei è impraticabile, Sileri, l'ipotesi? Secondo me è impraticabile al momento, però è chiaro che se vi è un'idea, una soluzione, ben venga, ma credo che sia impraticabile. Però, ripeto, chiedete al Vice Ministro della Salute un'idea di un passaporto sanitario, io in questo momento la vedo molto, molto difficile, ecco. Altri paesi ci stanno pensando, però anche prima della Sardegna, Sì, la Croazia, la Grecia. Pensarci va bene e se si trova la via e magari si mutua anche ciò che viene fatto in altri paesi per avere anche un qualcosa di comune, ben venga. Però se lei mi chiede oggi è fattibile, oggi 24-25 di maggio, credo che sia molto difficile oggi, è chiaro che poi magari nelle prossime settimane e mesi una soluzione si trova, però ad oggi concretamente facciamo secondo me prima riaprire le regioni, ovviamente controllando bene la popolazione, vedendo quanto è permeato il virus all'interno della popolazione grazie ai test sierologici, anche che 150.000 che sono partiti, più i test che sta facendo le regioni. L'ideale sarebbe anche far convogliare tutti questi dati a livello centrale per capire esattamente ciò che è accaduto. Questo ci darà un quadro migliore, allora poi da lì si può partire per qualcos'altro, tipo questo passaporto, anche se io la vedo molto lontana, per dico la verità, è una mia impressione da medico probabilmente più che da politico, però facciamo prima a riaprire e secondo me lasciarci anche questo virus alle spalle rispettando le regole. Questa app arriva o non arriva? Immuni? L'immuni arriva. Quando? Io credo in 10-15 giorni, ieri mi hanno chiesto quanti giorni più o meno, ho detto 10 più o meno 5 giorni, io immagino che per la prima decade di giugno, la prima decade di giugno, oggi è 5, immagino la prima decade di giugno. No, guardavo Sileri a come siamo partiti e a come siamo arrivati su quest'app, insomma, ecco, per carità, Guardate, l'applicazione Immuni rientra in una riorganizzazione importante e della medicina territoriale e della capacità di fare tamponi e della medicina preventiva. E quindi è un tracing importantissimo che quando sarà attivo darà ulteriori informazioni non solo sul tracciamento ma anche sulla diffusione della malattia stessa. Senta, ma in Europa c'è un paese che ha già l'app in funzione, che lei sappia? Perché non ho capito, per esempio la Gran Bretagna doveva partire subito e sono ancora a caro amico, come si dice a Roma. Non ho capito dove si sta provando in Europa. Sappiamo che è stata provata in Estremo Oriente, ma in Europa qualcuno ha fatto dei test? Che io sappia no, almeno all'inizio della scorsa settimana. Quindi non ci sono dei punti di riferimento. Domanda brutale, Sileri, e con questa chiudiamo. C'è qualcuno che sta facendo la guerra al Ministero? Perché ho visto in questi ultimi giorni si è un po', tra la questione del segretario generale, tra la questione dei numeri che non arrivavano, si è un po' innervosito, mi è sembrato. No, nessuna guerra, è semplicemente modo di lavorare, cioè secondo me organizzazione, nulla di politico assolutamente, si tratta di metodo di lavoro. Io sono abituato a lavorare condividendo le informazioni e capite bene che l'impegno del Ministero è stato anche importante e quindi magari alcune cose sono sfuggite, alcune magari sono arrivate in ritardo, ma capite pure che la fase delicata. Il Ministero non era abituato a un'emergenza, forse anche precedentemente era... Io penso che il Ministero debba riacquisire, ma se prendete le mie interviste di un anno fa, anche di due anni fa, quando ero Presidente di Commissione, ho sempre detto che il Ministero avrebbe dovuto riprendere un ruolo centrale di controllo della sanità regionale. Non significa tornare indietro alle regioni, assolutamente, significa riprendere quel potere di coordinamento, di monitoraggio, aiuto, supporto, condivisione, e quindi probabilmente sono venute fuori delle latenze, dei ritardi, soprattutto in un diciamo, in un'emergenza così grande che era sicuramente imprevista. Quindi quello che io ho lamentato era semplicemente questo, la necessità questo, di una maggior, di un maggior coordinamento, ecco, tutto qui, ma assolutamente non politico, per carità di Dio. Era il medico, unico medico del governo che, diciamo, che lamentava, forse anche è la mia indole, no? Essendo io un chirurgo, sono abituato ad essere più incisivo, più pragmatico. Battutona di silenzio. No, non è una battutona, è così, cioè io sono abituato a poche parole e infatti, quindi avere tutto sotto controllo mi consente di lavorare meglio, cioè se io ho lavorato al 100%, no, da chirurgo amo lavorare. Non è contento se non incide, Silerio. La ringrazio. Comunque qualche parola in più del suo ministro la dice, perché invece Speranza quasi non l'abbiamo proprio sentito, quasi sparito. L'ho invitato varie volte, ma guardi, sia io Speranza che la sottosegretaria Zampa, diciamo, stiamo lavorando veramente tanto, cioè non avremmo mai pensato, la nostra idea era quella di far rinascere la sanità. Ne avevamo parlato prima, che era novembre, dicembre, quando poi sarebbero i primi miliardi per la sanità, e l'idea era quella di fare un progetto per ridare alla sanità quello che era stato tolto negli ultimi 10 anni, no? Che si parla fra i 30 e i 40 miliardi di euro che erano stati tolti. Ovviamente si pensava a un progetto proprio di ristrutturazione, ricostituzione del Tribunale Nazionale, e quello che è arrivato è drammatico. Quindi immaginate il lavoro che ci impegna su più fronti tutti i giorni, quindi è dura, ecco. Grazie per Paolo Sileri, viceministro della salute, buon lavoro, speriamo che incida, appunto. Una pausa, poi ci ritroviamo con Paola Severino. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Ed eccoci di nuovo, Paola Severino, avvocato, ex ministro della giustizia, oggi vicepresidente della Luis Guido Carli di Roma. Severino, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Maria, prego. Buongiorno, presidente. La prima domanda è legata al suo passato di ministro della giustizia, oltre che la sua presente di grande avvocato. Che effetto le fa, appunto, leggere che il suo successore, il ministro della giustizia Bonafede, annuncia un piano di riforma del CSM troppo tardi? Questa situazione è emersa grazie al Trojan inserito nel telefono del potente magistrato Palamara, ha rivelato che nella magistratura è tutto un piazzami questo, non mandare quello di là, non fare quest'altro. Un quadro preoccupante, non crede? Vede, io da questo punto di vista sono all'antica e sono stata fortemente influenzata dal fatto di aver avuto in famiglia tutti i magistrati. Diciamo un po' che io sono stata la pecora nera, il primo avvocato della famiglia in mezzo a tanti magistrati. Mio padre e i suoi due fratelli erano magistrati. E io ricordo da bambina le loro abitudini. In primo luogo, addirittura in casa mio padre non parlava mai delle sue idee politiche, perché riteneva che un magistrato se le dovesse tenere per sé, non è che non le dovesse avere, ma le doveva custodire gelosamente, perché non dovevano influenzare poi le sue decisioni. Secondo insegnamento che mi viene da loro, all'epoca le valutazioni avvenivano per merito e non certamente per appartenenza alle correnti. Nessuno di loro si è mai sentito limitato nella propria libertà di decidere da questo. Io mi ricordo mio padre, io bambina, ad un certo punto si chiudeva nella sua stanza e scriveva sentenze, perché sapeva che quelle sentenze sarebbero andate ad un vaglio di merito. Ecco, io credo che il merito sia un valore da non dimenticare mai, anche quando si tratta di decidere sulla promozione di un magistrato. E allora ben venga una riforma del CSM. Per troppi anni abbiamo sentito che il potere delle correnti si rinforzava sempre di più, ed è ovvio che una corrente, una volta che il proprio rappresentante è stato votato, cerchi di portare avanti candidati che appartengano a quella corrente. Ecco, credo che questo sistema si fosse assolutamente logorato e abbia dato i risultati che sono sotto gli occhi e nelle orecchie di tutti. E il disvelamento anche di un intreccio di potere che per certi versi è preoccupante, non le pare? Ma è preoccupante nella misura in cui il magistrato dovrebbe occuparsi e preoccuparsi soltanto della giustizia. È chiaro che la giustizia vive nel mondo, vive all'interno della società e non si può fare a meno di considerare alcuni aspetti, ma certamente l'influenza politica no, l'influenza politica non deve in alcun modo raggiungere la magistratura. Aggiungiamo poi un altro dato, che le intercettazioni danno sempre una rappresentazione pruriginosa di ciò che accade, e anche su questo io credo che dovremmo fare una meditazione. Quelle intercettazioni non avevano contenuti penalmente rilevanti, sono finite negli atti depositati non so come, ci hanno dato uno spaccato davvero impressionante di alcuni momenti della vita della magistratura, ma sono collocate in un contesto nel quale forse tutto diventa ancora più oscuro, proprio perché intercettato, captato, senza che noi possiamo sentire l'intero contesto della telefonata. E allora io credo che anche questo sia un motivo di grande ispirazione per la magistratura. L'uso del mezzo di captazione certamente deve essere uno dei mezzi di investigazione, però va usato direi con dosaggio, con cautela, e soprattutto quando se ne pubblicano i contenuti bisogna fare i conti con il modo con il quale verranno lette. Maria, prego. Ecco, in queste nostre prime domande emerge uno dei problemi, dei grandi problemi italiani, vale a dire la preparazione e il senso anche morale delle classi dirigenti di questo paese. Qui adesso mi sposto sul suo altro ruolo, che è quello di vicepresidente della LUIS. Oggi Ernesto Galli della Loggia appunto fotografa quello che servirebbe a una classe dirigente, e tra le cose che servirebbero senz'altro è l'idea di avere un senso, quello che si chiamava un tempo il senso dello Stato. Quindi minore interesse alla propria carriera, alla scalata sociale, e maggiore interesse al futuro della collettività. Voi alla LUIS avete iniziato un percorso appunto anche non solo di formazione dei laureati, quindi la classe dirigente, ma anche di borse di studio, perché uno dei problemi è che in Italia l'ascensore sociale si è bloccato da tempo. Le chiedo, la classe dirigente italiana è come dire redimibile, o pensa soltanto a farsi gli affari propri? E con le borse di studio della LUIS come selezionate quelli meritevoli? Sì, allora rispondo alla prima domanda, che è quello sulla classe dirigente della pubblica amministrazione. Io l'ho conosciuta da vicino, perché essendo stata ministro ho potuto vedere che ci sono delle persone straordinariamente capaci e orgogliose di essere nella pubblica amministrazione, non soltanto meritevoli di starci, ma anche orgogliose. E poi c'è una massa di persone difficilmente identificabili, che fanno il minimo indispensabile, svolgono il loro lavoro come un impiego qualsiasi. Noi da questo punto di vista abbiamo da tempo iniziato un programma di formazione della classe dirigente italiana, perché pensiamo che avere una buona classe dirigente voglia dire portare il paese molto avanti. In Francia c'è un istituto specializzato in questo, l'ENA. Beh, io credo che in ognuna delle nostre università ci debba essere il pensiero di ispirarsi a queste grandi istituzioni. Poi c'è un'altra considerazione che mi spinge ad essere ottimista. Oggi forse cercare vincere un concorso nella pubblica amministrazione, entrare nella pubblica amministrazione, può diventare di nuovo un'aspirazione, il ricevere sicurezza dallo Stato. Bene, noi dobbiamo fare in modo che i giovani che entrino nello Stato siano i migliori, non scegliere i migliori soltanto per il mondo privato, per il mondo dell'economia, per il mondo delle imprese. E allora qui interviene il discorso del merito. Noi cerchiamo di insegnare ai ragazzi fin dall'epoca della scuola che il merito e la legalità sono due valori. Noi nasciamo col senso della giustizia, Poi qualcuno ci dà il cattivo esempio, ci fa vedere che essere più furbi rappresenta una scorciatoia, che dire una bugia può rappresentare un modo per ottenere più facilmente un risultato. E allora si pensa che questi valori, anzi questi disvalori, possano premiare. Bene, noi dobbiamo semplicemente spiegare ai ragazzi che questi disvalori non ti premiano, ti portano su un'apparente scorciatoia che poi diventa un vicolo cieco, una strada chiusa. E premiamo quelli che credono in questo discorso con delle borse di studio. I migliori vengono selezionati, il merito viene premiato, cioè dimostriamo loro che se meriti, se studi, se sei bravo, tu hai davanti a te una strada davvero dritta da percorrere, non una strada in salita, ma una strada nella quale pedalando ce la puoi fare a raggiungere straordinari risultati. Le borse di studio lo dimostrano e la bravura di questi ragazzi ce lo conferma. Noi abbiamo delle storie straordinarie da raccontare di ragazzi che si sono, i cui genitori si sono sacrificati perché i loro figli potessero laurearsi. Bene, vogliamo aiutare questi genitori, così come abbiamo deciso di aiutare le scuole in questo periodo. E qui sapete, abbiamo ricevuto delle testimonianze davvero impressionanti. Il primo allarme sulla criminalità lo abbiamo ricevuto dalle scuole, che ci hanno detto: guardate che le famiglie hanno bisogno di pacchi alimentari, hanno bisogno di denaro per comprare il cibo. Abbiamo capito che le scuole sono un grande traino per la legalità e per la socializzazione, e dunque abbiamo fatto tra di noi una raccolta di fondi e adesso le distribuiremo alle scuole, perché loro sanno a chi devono essere destinate, chi le merita maggiormente, e le sottrarrà così alle tentazioni della criminalità. Ha parlato lei di, ha accennato lei al tema della pubblica amministrazione. La vorrei portare su questo. In questi giorni si fa un gran parlare di sburocratizzazione, nel momento nel quale però abbiamo approvato un'enorme quantità di norme collegate a Covid-19, e qua si innesta una questione, se mi consente, che in parte la riguarda. Da più parti si dice che il blocco spesso che avviene nell'azione della pubblica amministrazione ha a che fare con i rischi che corrono i dirigenti della pubblica amministrazione in base alla legge che porta il suo nome, la legge Severino, ossia il rischio di abuso d'ufficio, no? E il rischio di fatto che corre il dirigente pubblico nel momento nel quale firma una carta, e la facilità, no, che si ha di finire nelle maglie della giustizia tramite tutto questo, pur magari essendo convinti di aver fatto una cosa perfettamente corretta. Secondo lei c'è qualcosa da rivedere su quel fronte? Ma allora, la norma sull'abuso d'ufficio non l'ho inventata io, esiste nel codice da sempre, e quindi è semmai quella da riformare, e sto pensando ad una serie di formule che consentano di filtrare meglio ciò che è penalmente rilevante da ciò che non lo è. Ahimè, la giurisprudenza ha allargato molto l'ambito di applicazione di quella fattispecie, nonostante il legislatore abbia più volte cercato di contenerla, e dunque dobbiamo, secondo me, ritornare, rimboccarci le maniche e darne una nuova qualificazione. Per quanto riguarda la burocrazia, io credo che è molto a monte del tema, sì, dell'abuso d'ufficio. Io credo, sì, l'abuso d'ufficio davvero è un pezzo, e voglio specificare chiaramente, cioè non penso che sia l'unico elemento, ovvio, insomma, per carità. Ma no, questo è il percorso giusto, perché all'abuso d'ufficio arriviamo attraverso un imbuto, che è quello della burocrazia. E io credo che la burocrazia sia una delle fonti della corruzione. Più il percorso per arrivare ad una concessione, ad una licenza, è tortuoso, è difficile, è lungo, più la tentazione da parte del cittadino di pagare una tangente per ottenere velocemente un risultato sarà forte, più la tentazione del soggetto pubblico di vendere la propria funzione pubblica per accelerare una pratica sarà forte. Certo, sono tentazioni alle quali bisognerebbe resistere, ma noi sappiamo che la vita è fatta di persone forti da questo punto di vista e di tante altre persone deboli. E allora io credo che la semplificazione sia una strada straordinariamente efficace per questo. Noi dobbiamo eliminare le pastoie burocratiche nelle quali la corruzione trova dei pascoli infiniti. Semplificare e quindi consentire poi al soggetto pubblico di decidere con maggiore tranquillità, sia sotto il profilo del lasciare il timore del danno erariale e dell'abuso d'ufficio solo alle ipotesi nelle quali davvero c'è bisogno di intervenire, ma devono essere misure residuali, il resto deve essere basato sulla fisiologia della semplificazione. Senta, professoressa Severino, che cosa resterà di questi mesi del Covid-19? Che cosa ci possiamo portare dietro di positivo? E qualcuno dice, grazie purtroppo a quello che è successo in questi mesi, siamo stati costretti a imparare cose che altrimenti non avremmo imparato, soprattutto sotto il profilo tecnologico, e questo ci costringerà ad ammodernarci, perché sennò ci avremmo messo 15 anni. Sono ottimisti quelli che la vedono così? No, io credo che siano realisti. Se devo fare un esempio personale, io stessa in questo periodo ho utilizzato moltissimo mezzi di comunicazione più moderni e quelli più interattivi. Anche l'università si è dotata, accelerando un processo che aveva già iniziato, di piattaforme interattive attraverso le quali insegnare. Quindi il mio contatto con la tecnologia è diventato quotidiano, eppure non lo avevo così frequentemente né lo avevo praticato in maniera così intensa. E devo dire che anche per gli studenti è stata una sorpresa scoprire che attraverso uno schermo tu potevi anche dialogare con il tuo professore, non solo ascoltare passivamente la lezione, anzi quasi lo schermo facilitava questo dialogo, perché toglieva quella timidezza che spesso gli studenti hanno nel porre la domanda al professore. Ecco, l'insegnamento su piattaforma interattiva è stata un'esperienza straordinaria che, anziché allontanarci, ci ha avvicinato agli studenti. Poi è chiaro che in certi momenti la presenza del professore è indispensabile, quando devi seguire una tesi, quando assegni una tesi, quando ti laurei. Io credo che la grande soddisfazione che hanno le famiglie e i genitori nel vedere il proprio figlio laureato vada accompagnata da una cerimonia che sia significativa. Però dica la verità, i suoi nipoti invece, che sono piccoli, forse hanno bisogno di una scuola con l'insegnante in carne e ossa. Una cosa sono gli universitari, una cosa sono i bambini. Che ne pensa? Sono perfettamente d'accordo, anche perché madri e padri si sono dovuti sacrificare molto da questo punto di vista. Hanno in qualche modo sostituito la mancanza dell'insegnante, ma i bambini hanno bisogno della compagnia dei loro coetanei, hanno bisogno di un insegnante di riferimento anche in termini di vicinanza fisica. Quindi io credo che la scuola, non appena sarà finito questo periodo, dovrà riprendere il proprio compito secondo i canoni tradizionali, per i bambini sicuramente. Sarà tosta anche a settembre. Grazie comunque a Paola Severino per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Avvocato, ex ministro della giustizia, vicepresidente della Luis Guido Carli di Roma. Cara Maria, noi ci risentiamo domani alle 8:20, come sempre, come sempre, invece con gli altri ascoltatori, ci risentiamo invece con me alle 6:30 del mattino, per chi ci vorrà essere. Ci trovate anche su Facebook, la pagina Facebook di 24 Mattino, dalla quale andiamo in diretta e mettiamo altri contenuti, su Instagram, su Twitter, se volete scriverci, 24 Mattino @radio24.it. Ci risentiamo domani. Ciao.